osservo da un po' e non so se ti ho già vista per la strada o dentro a Rolling Stone. Non so che cos'ho, ma so che si può andare a fondo insieme dentro un altro shot. Io e te, un bar, svelta andiamocene via di qua, dove l'orizzonte non ha fine, la sabbia fine, quando sei fine, quando arrossisci per un complimento, e se ci perderemo rimarrà un momento. Prendiamo alla vita per ogni ferita che sarà servita per stare con te, da non vedi che ti vorrei, lo vedi quanto ti vorrei, io. Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera come questa sera, con la luna piena, muoviti, poi balla un po'. Ti osservo da un po' e non so se ti ho, bla bla bla, parlami dai, fa fa fa, fammelo vedere che fai. Quando ti provoco, come puoi dirmi di no? Lo sai che sprechi solo tempo. Ehi, se l'amore è complicato, ehi, specialmente quando è nato, ehi, da un colpo di fulmine andato sul cuore sbagliato. Ma dicono che forse non fa per te, dicono che forse non fai per me. Prendiamo all'invidia per ogni ferita che sarà servita per stare con te. Da non vedi che ti vorrei, lo vedi quanto ti vorrei, io. Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera come questa sera, con la luna piena, muoviti, poi balla. Senza Photoshop, bruci come in un coffee shop. Quando alzi un po' il gomito, sei più sexy del solito. Ma tu balla un po'. Nera come